Per comprendere ciò che intendo con il termine fede dipendente, dobbiamo per forza di cose leggere il passo biblico dal quale sono scaturite queste riflessioni. Il brano di lettura si trova nel libro di Giosuè, al capitolo 2. Or Giosuè congedò il popolo, e i figli di Israele se ne andarono ciascuno alla sua eredità per prendere possesso del paese. Il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè, e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, e che avevano visto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva compiuto per Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di 110 anni, e fu sepolto nel territorio della sua eredità a Timnat Heres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gash. Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno, nelle opere che egli aveva compiuto per Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e servirono Baal, abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e seguirono altri dei fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Essi abbandonarono l'Eterno, e servirono Baal e le Ashtaroth. E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani dei predoni, che li spogliarono, e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno ai quali non poterono più tener fronte. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, portando calamità, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono grandemente angustiati. Poi l'Eterno suscitava dei giudici, che li liberavano dalle mani di coloro che li spogliavano. Purtroppo essi non davano ascolto neppure ai loro giudici, ma si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno. Essi però non fecero così. Quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimevano e li angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli, prostrarsi davanti a loro, e non desistevano affatto dalle loro opere e dalla loro condotta ostinata. Giudici 2.6-19. Uno dei tanti interrogativi in merito al regno di Dio è perché ci sono così poche persone impegnate in questa opera. Non è certamente l'opinione di un pessimista perché Gesù ha ordinato ai suoi discepoli di pregare il Signore della Messe, perché la Messe è grande e pochi sono gli operai. In effetti, l'esperienza insegna che le persone veramente consacrate nell'opera di Dio sono poche, e molte di quelle che sono impegnate ruotano attorno ai quei pochi veramente consacrati. Perché questa carenza nel campo di Dio? Sono forse poche le chiamate a servire Cristo Gesù? Oppure ci è un motivo per il quale i credenti non sono veramente consacrati nell'opera di Dio? Forse di motivi ce ne sono vari, ma ce n'è è uno che primeggia fra tutti. Ossia, i credenti hanno una fede dipendente e di conseguenza non sono diventati adulti da prendersi delle responsabilità. Una simile conclusione deve essere spiegata e motivata, ed è quello che cercheremo di fare. La storia del popolo di Israele si è intrecciata con la vita di due grandi uomini, i quali hanno dato una svolta decisiva storica e spirituale a tale stirpe, Mosè e Giosuè. Mosè è stato l'uomo che, dopo 400 anni di dimora in Egitto, ha condotto Israele, ormai diventato un popolo di quasi 2 milioni di persone, fuori dalla schiavitù degli egiziani, e lo ha guidato verso la terra promessa. Giosuè è stato l'uomo che ha introdotto il popolo di Israele nella terra promessa e alla sua conquista per i primi 40-50 anni. In questo periodo il popolo di Israele non aveva difficoltà nel seguire l'Eterno, il loro Dio, anche se di tanto in tanto dimostrava una certa ribellione, ma in fin dei conti e tutto sommato, Israele aveva il suo sguardo rivolto all'unico Dio che lo aveva salvato dalla schiavitù e che al tempo di Giosuè lo stava miracolosamente aiutando a possedere la terra promessa. Il brano che abbiamo letto nel libro dei Giudici è ambientato nel periodo successivo alla morte del grande condottiero. E lo scrittore ha messo in evidenza che finché visse Giosuè, il popolo di Israele era fedele all'Eterno. Finché visse, ma alla sua morte, la gente seguì le divinità di altre nazioni. L'Eterno rispondeva all'idolatria del popolo di Israele dandolo nelle mani di altre nazioni. Allora Israele, trovandosi in grande difficoltà, invocava la sua divinità che puntualmente lo liberava. In definitiva, il popolo di Israele per i primi 400-500 anni della sua conquista della terra promessa viveva una continua alternanza di fedeltà e di ribellione al suo Dio. Il popolo era fedele quando a condurlo era un uomo deciso e fermo nella vera fede, ma alla morte di questo, Israele abbandonava la verità. Poiché nasciamo tutti dalla stessa pasta, cioè tutti abbiamo la stessa natura, e poiché non vi è nulla di nuovo sotto il sole, la storia positiva e negativa di Israele è un monito per tutti coloro che hanno posto fede in Cristo Gesù. Per comprendere la realtà delle cose occorre partire dal presupposto che il popolo di Israele era costituito da credenti che amavano il loro Dio che li aveva salvati dalla dura schiavitù. Come oggi il popolo che si definisce cristiano è costituito da persone che amano Dio tramite Cristo Gesù, perché sono stati salvati dalla perdizione eterna e liberati dalla schiavitù del peccato. Nella sua grazia e misericordia al momento opportuno l'Eterno suscitava in Israele uomini pieni di fede con evidenti carismi spirituali per condurre il popolo sulla retta via e per istruirli come oggi il Dio Trino suscita degli uomini con evidenti carismi spirituali e che noi chiamiamo leader per istruire il popolo che ama Cristo Gesù e condurlo sulla giusta strada. Questi uomini dotati sono doni non indifferenti per la Chiesa di Cristo perché riescono a trascinare folle all'ascolto della parola di Dio e sono in grado di invogliare giovani e meno giovani nel vasto campo di Dio. Purtroppo la realtà delle cose ci dice che pochissimi mettono in pratica ciò che ascoltano. Pochissimi rimangono fedeli alla loro chiamata e, come il popolo di Israele, alla scomparsa dei loro leader tornano alla vita di prima senza alcun interesse per le cose di Dio, rimanendo dei semplici uditori. Giacomo 1.22. Perché, come accadeva per il popolo di Israele, molte persone non continuano a seguire il vero Dio nel momento in cui viene loro a mancare la guida di uomini di azione e di fede. Perché una comunità segue con fervore Cristo Gesù e poi si spegne quando viene a mancare il loro leader? Perché meno, e questa è stata anche la mia esperienza, meno alcuni fratelli frequentano regolarmente una comunità, sono costanti nell'esprimere la loro fede, e poi al primo disaccordo con il fratello che tanto ammiravano, lasciano tutto per tornare alla vita di prima? Non avevano esercitata la fede in Cristo Gesù? Erano forse falsi nel loro comportamento? Niente di tutto questo. La verità è che essi avevano posto sì fede in Cristo, ma la loro fede dipendeva dagli uomini che seguivano con ardore il loro Salvatore. In definitiva si può dire che sono persone che amano il vero Dio come lo amavano gli israeliti, ma hanno una fede esercitata all'ombra dei grandi uomini di Dio. Se questi leader sono presenti e attivi, lo sono anche loro. Nel momento in cui muoiono i leader, muore pure il loro zelo e si spegne l'espressione della loro fede. Vi è un personaggio descritto nella parola di Dio che rispecchia molto bene una fede dipendente. E la sua vita viene descritta in poche parole. Mi rifaccio al re del regno di Giuda Joas. Joas aveva 7 anni quando iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zibia di Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Geoiada. 2 Cronache 24.12. Le circostanze indussero il sacerdote Geoiada a proclamare re Joas quando questi aveva 7 anni e fu il suo leader spirituale finché visse. Joas camminò nella volontà di Dio per più di 30 anni. E dopo tanto tempo di fedeltà nessuno avrebbe mai pensato che in seguito alla morte della sua guida spirituale egli adorasse altre divinità e uccidesse. Addirittura, lo stesso figlio del sacerdote che gli aveva insegnato principi morali ineccepibili. Com'è possibile che dopo 20, 30, 40 anni un credente si allontani dalla verità? Una spiegazione certa è che vi sono persone che hanno posto, senza rendersene conto, più fede nell'uomo leader che in Cristo. Così molti cadono nella trappola di amare più i doni che il donatore. In effetti, avere delle guide spirituali, seguire dei leader dotati è un dono di Dio da apprezzare, ma quando gli occhi del credente si spostano da Cristo all'uomo, allora sorge la tipica reazione che porta a abbandonare i sentieri giusti. Senza rendersene conto, molti credenti passano da una vita di fede e di dipendenza da Cristo che non vedono, ad una fede e ad una dipendenza ad un uomo limitato, ma che possono osservare ogni giorno. Eppure il comandamento di Dio è molto chiaro. L'ordine è di amare e seguire Cristo Gesù al di sopra di ogni cosa. Se poi Dio nella sua misericordia manda uomini dotati per aiutare e benedire la Chiesa, ben venga, ma mai e poi mai nessuno deve dipendere dalla fede di un altro uomo. Solo i bambini dipendono esclusivamente dagli adulti, ma una fede matura appartiene a chi ha il coraggio di prendersi le sue responsabilità. La rovina degli israeliti è stata quella di seguire un uomo, come la rovina di tanti credenti di oggi è seguire dei leader. Ma il credente accorto seguirà Cristo anche mentre segue le direttive di un uomo. Forse non tutti riescono a cogliere questa determinante differenza, che se non è colta diventa fatale. Come un uomo di Dio non permetterà mai ad alcuno di affezionarsi a lui più del dovuto, così un figlio di Dio si guarderà dal dipendere totalmente da qualsiasi guida spirituale. Il momento in cui un figlio di Dio avrà il desiderio di abbandonare la sua fede e la sua dipendenza da Cristo costituirà la prova di chi sia il vero oggetto nel quale egli ha riposto la propria fede. Marzo 2006. Ellero.